Lions Club Verbania, servizio del libro parlato Robert Holman per i ciechi d'Italia. Questa registrazione è stata concepita e realizzata dal libro parlato Lions unicamente per consentirne la fruizione in via esclusiva e personale ai non vedenti che ne fanno richiesta. Qualsiasi altro uso, come ogni altra utilizzazione estranea alla predetta finalità, non specificatamente autorizzato, inclusa la duplicazione del CD, è soggetto alle sanzioni di legge. Jen Austen, Emma, edizione Garzanti 1965. Registrazione offerta da Lioness Club Stradella Broni. Legge Gabriella Brambilla. Si prega chi ascolta di attenersi scrupolosamente alle norme d'uso dei CD riportate sul contenitore. Grazie. Prima traccia. Emma Woodhouse, avvenente, intelligente e ricca, con una casa provvista di ogni agio e un'indole felice, pareva riunire in sé alcuni dei migliori vantaggi dell'esistenza, ed era vissuta circa 21 anni nel mondo senza quasi conoscere dispiaceri o contrarietà. Era la minore delle due figlie d'un padre quanto mai affettuoso e indulgente e, in seguito al matrimonio della sorella, era rimasta padrona di casa assai per tempo. Sua madre era morta da troppi anni perché ella serbasse più di una vaga memoria delle sue carezze e aveva fatto veci di madre un'eccellente donna in qualità di governante, che per affetto si era dimostrata poco meno d'una madre. Per 16 anni Miss Taylor era stata nella famiglia Woodhouse più come amica che come governante, affezionatissima a entrambe le figlie, ma specialmente a Emma. Tra loro due c'era piuttosto un'intimità di sorelle. Anche prima che Miss Taylor avesse cessato dall'impiego nominale di governante, la mitezza della sua indole non le aveva consentito di usare modi severi e, svanita oramai da un pezzo l'ombra dell'autorità, esse erano vissute insieme come amiche molto devote l'una all'altra. Ed Emma faceva quel che le piaceva, tenendo in gran conto sì il giudizio di Miss Taylor, ma agendo soprattutto di testa propria. I reali guai della situazione di Emma erano invero il potere averle troppo vinte e una tendenza a pensar troppo bene di se stessa. Codesti erano gli svantaggi che minacciavano di adulterare i suoi molti godimenti. Tuttavia, per il momento, il pericolo era così inavvertito che quegli svantaggi non contavano affatto come sventure per lei. Un dispiacere venne, un blando dispiacere, ma non in forma di uno sgradevole sentimento. Miss Taylor andò sposa. Fu la perdita di Miss Taylor a causare il primo dolore. Il giorno delle nozze della sua amica Diletta, Emma per la prima volta rimase qualche tempo assorta in mesti pensieri. Finita la cerimonia e partita la coppia degli sposi, Emma e il padre restarono a pranzare insieme, senza alcuna prospettiva d'una terza persona che ravvivasse una lunga sera. Il padre, come al solito, dopo pranzo fu preso dal sonno e a lei non rimase che sedere e meditare su quel che aveva perduto. L'avvenimento pareva promettere ogni felicità alla sua amica. Mr. Weston era un uomo di carattere irreprensibile, di fortuna agiata, d'età conveniente e di tratto piacevole. E c'era qualche soddisfazione nel considerare con quanta amicizia disinteressata, generosa, lei, Emma, aveva sempre desiderato e favorito il matrimonio. E tuttavia quello era per lei un giorno nero. La mancanza di Miss Taylor si sarebbe fatta sentire ogni ora di ciascun giorno. Emma riandava nella mente la passata bontà dell'amica, la bontà, l'affetto di 16 anni, come Miss Taylor l'aveva istruita e come aveva giocato con lei da quando lei aveva 5 anni, come aveva messo ogni impegno a cattivarsela e a divertirla quando godeva buona salute e come l'aveva curata durante le varie malattie della fanciullezza. Per questo le era dovuto un gran debito di gratitudine. Ma le relazioni degli ultimi 7 anni, l'eguaglianza di livello e la perfetta familiarità che erano subito seguite al matrimonio di Isabella quando loro due erano rimaste sole, era un ricordo ancor più caro, più tenero. Era stata un'amica e una compagna quale poche possedevano, intelligente, istruita, utile, gentile, addentro a tutte le abitudini della famiglia, sollecita di tutti i suoi interessi e, soprattutto, sollecita del benessere di lei, Emma, a tal punto di interessarsi a ogni suo piacere, a ogni suo progetto. Una a cui essa poteva confidare ogni pensiero via via che nasceva e che aveva per lei un affetto quasi cieco. Come avrebbe potuto sopportare il cambiamento? Era vero che l'amica andava a stabilirsi solo a mezzo miglio di distanza da loro. Ma Emma era consapevole della gran differenza che ci doveva essere tra una Mrs. Weston distante solo mezzo miglio e una Miss Taylor in casa. E, nonostante tutti i suoi grandi privilegi naturali e domestici, essa correva ora gran rischio di soffrire di solitudine intellettuale. Amava teneramente il padre, ma egli non era per lei una compagnia. Non poteva affiatarsi con lei in una conversazione seria o frivola. L'inconveniente della disparità dei loro anni, e Mr. Woodhouse non si era sposato presto, era di parecchio accresciuto dall'indole e dalle abitudini di lui, che, essendo stato di salute cagionevole durante tutta la vita, senza attività di corpo o di spirito, egli era molto più vecchio di modi che d'anni. E sebbene fosse amato dappertutto per la sua benevolenza e il suo carattere dolce, le sue capacità mentali non l'avrebbero potuta raccomandare mai. La sorella, benché col matrimonio si fosse allontanata relativamente poco, essendosi stabilita a Londra, alla distanza di sole 16 miglia, non poteva davvero aver con lei contatti quotidiani e bisognava sforzarsi di passare alla meglio molte lunghe sere d'ottobre e di novembre a Hartfield prima che il Natale arrecasse la prossima visita di Isabella e del marito coi loro bimbi, sì da empirle la casa e da procurarle di nuovo una gradevole compagnia. Highbury, il grosso e popoloso villaggio che aveva quasi le proporzioni di una cittadina, a cui Hartfield, con tutto che avesse prato e piantonaie e nomi distinti, apparteneva effettivamente, non le offriva alcuna persona della sua condizione. Lì i Woodhouse erano i primi per posizione sociale. Tutti li guardavano con deferenza. Emma aveva molte conoscenze in paese, che suo padre era civile con tutti, ma nessuna fra tante che potesse accettarsi in luogo di Miss Taylor, sia pure per mezza giornata. Era un cambiamento melanconico ed Emma non poteva non sospirarne e desiderare cose impossibili, finché si destò suo padre e fu necessario mostrarsi di buon umore. Il suo spirito abbisognava di sostegno. Era un uomo nervoso, soggetto ad abbattersi per un non nulla, affezionato a tutte le persone a cui era avvezzo, al punto di aborrire l'idea di separarsene. Di fatto, ogni genere di cambiamento gli riusciva odioso. Spiacevole era il matrimonio sempre, in quanto origine di cambiamenti. E ancora non si era affatto rassegnato a vedersi uscir di casa una delle figlie, sposa. Né mai riusciva a parlare di lei se non con commiserazione, sebbene fosse stato un matrimonio interamente d'amore. Quando ecco che era costretto a separarsi pure da Miss Taylor e dalle sue abitudini di mite egoista e dalla sua completa incapacità di supporre che gli altri potessero sentire diversamente da lui, egli era quasi indotto a ritenere che Miss Taylor avesse fatto un passo non meno triste per sé che per loro, e che sarebbe stata molto più felice se avesse trascorso a Harfield il resto della sua vita. Emma sorrideva e ciarlava con quanto più brio poteva, per allontanare da lui tali pensieri. Ma quando venne l'ora del tè, fu inevitabile che egli dicesse esattamente quel che aveva all'ora del pranzo. «Povera Miss Taylor, vorrei che fosse qui di nuovo. Che peccato che Mr. Weston le abbia messo gli occhi addosso. Non posso andare d'accordo con te, babbo, sai che non posso. Mr. Weston è un uomo così buono, piacevole, eccellente, che merita assolutamente una buona moglie. E tu non avresti mica voluto che Miss Taylor vivesse con noi per sempre e sopportasse tutti i miei strilli, quando avrebbe potuto avere una casa propria?» «Una casa propria? Ma dov'è il vantaggio di una casa propria? Questa qui è grande 3 volte tanto. E quanto a te, tu non hai mai grilli, mia cara. Quante volte andremo a trovarli e loro verranno da noi? Non faremo che farci visite. S'ha da cominciare noi. Dobbiamo andare a fare la nostra visita di felicitazioni presto presto. Ma cara, come posso andare così lontano? Randalls è una bella distanza. Non potrei coprirti la metà a piedi.» «No, babbo, nessuno t'ha detto d'andarci a piedi. Ci andremo di certo in carrozza.» «In carrozza? Ma James non garberà affatto ad attaccare per un percorso così breve. E dove hanno da stare i poveri cavalli mentre noi facciamo la nostra visita?» «Saranno messi nelle scuderie di Mr. Weston, babbo. Sai che abbiamo già fissato tutto questo? Ne abbiamo discusso esaurientemente ieri sera con Mr. Weston. E quanto a James, puoi star certo che gli piacerà sempre d'andare a Randalls, perché ha lì una figlia domestica. Anzi, mi chiedo se lui ci condurrà mai altrove.» «Questa è stata opera tua, babbo. Sei stato tu a procurare a Anna quel buon posto. Ad Anna non ci aveva pensato nessuno finché la nominasti tu. James te ne è tanto grato.» «Sono contentissimo d'aver pensato a lei. Fu una combinazione molto fortunata, che non mi sarebbe piaciuto che il povero James si ritenesse messo da parte in alcun caso. E sono sicuro che lei sarà una serva eccellente. È una ragazza civile, affabile. Ne ho grande stima. Ogni volta che la vedo mi fa la riverenza e mi chiede come sto in modo assai grazioso. E quando l'hai fatta venire qui a cucire, ho notato che sempre gira nel modo giusto la maniglia della porta e non la sbatte mai. Son sicuro che sarà una domestica eccellente e sarà di gran conforto alla povera Miss Taylor avere attorno una persona a cui è avvezza. Ogni volta che James va là a trovare la figlia, tu sai, Miss Taylor avrà nostre notizie, potrà dirle come stiamo noi tutti. Emma non risparmiò sforzi per alimentare questo più lieto corso di idee e sperava, con l'aiuto della tavola reale, di riuscire a far passare più o meno bene la serata al padre e a non essere assalita da altro rammarico che dal proprio. Fu portata la tavola reale, ma subito dopo entrò una visita e rese inutile il gioco. Mr. Knightley, un uomo giudizioso di circa 37 o 38 anni, era non soltanto un vecchio ed intimo amico della famiglia, ma aveva speciali vincoli con essa come fratello maggiore del marito di Isabella. Abitava a circa un miglio da Highbury, faceva frequenti visite ed era sempre il benvenuto, e più benvenuto che mai questa volta, poiché veniva direttamente dai loro comuni parenti a Londra. Dopo alcuni giorni d'assenza era tornato in tempo per cenare tardi, ed ora aveva fatto due passi fino ad Hartfield per dire che a Brunswick Square stavano tutti bene. Questa visita fu una circostanza fortunata che animò Mr. Woodhouse per qualche tempo. Mr. Knightley aveva un fare brioso che sempre produceva un benefico effetto su di lui. E le sue molte domande intorno alla povera Isabella e ai suoi figli ricevettero le più soddisfacenti risposte. Esaurito questo tema, Mr. Woodhouse osservò pieno di gratitudine: «È molto gentile da parte vostra, Mr. Knightley, uscire a questa tarda ora per farci una visita. Ho paura che sia stata per voi una camminataccia». «Niente affatto, signore. È una magnifica notte di luna e così mite che devo ritirarmi dal vostro gran fuoco». «Ma dovete averla trovata umidissima e fangosissima. Mi auguro che non vi prendiate un'infreddatura». «Fangosa, caro signore, ma guardate le mie scarpe, non c'è uno schizzo». «Ma è proprio una cosa sorprendente, poiché qui non ha fatto che piovere. È venuta una pioggia dirotta per mezz'ora mentre stavamo facendo colazione. Io volevo che rimandassero il matrimonio». «A proposito, non vi ho fatto le mie felicitazioni, rendendomi conto assai bene del genere di felicità che dovete sentire entrambi, non ho avuto alcuna fretta di farvele, ma spero che tutto sia andato per il meglio. Che contegno avete tenuto voi tutti? Chi ha pianto di più?» «Ah, povera Miss Taylor, è una gran tristezza». «Poveri Mr. e Miss Woodhouse, se volete, ma francamente non posso dire povera Miss Taylor. Ho una gran considerazione per voi e per Emma, ma quando si viene al punto della dipendenza o dell'indipendenza, in ogni modo deve essere meglio avere una sola persona da contentare che due. Specialmente quando una di queste due è un essere così capriccioso e seccante», disse Emma scherzando. «Questo è il vostro pensiero, lo so, ed è quel che direste certamente se mio padre non fosse qui». «Credo che sia proprio vero, mia cara», disse con un sospiro Mr. Woodhouse. «Ho paura d'essere qualche volta assai capriccioso e seccante». «Babbo caro, non pensi mica che io volessi dire di te, e non supponi che Mr. Knightley l'alludesse a te. Che idea orribile! Oh no! Voglio dir solo di me stessa. Mr. Knightley prova gusto a criticarmi, sai, per scherzo. Non è che uno scherzo. Ci diciamo sempre, tra di noi, quel che ci pare». Mr. Knightley, in vero, era una delle poche persone che avessero da far critiche a Emma Woodhouse, e la sola persona che ne parlasse a lei. E sebbene ciò riuscisse tutt'altro che gradito a Emma, ella sapeva che lo sarebbe stato tanto meno a suo padre, sicché non avrebbe voluto lasciargli neppur sospettare che qualcuno potesse non considerarla perfetta. «Emma sa che io non ho l'abitudine di adularla», disse Mr. Knightley, ma non volevo censurare nessuno. Miss Taylor soleva avere due persone da contentare. Ora non ne avrà che una. È probabile che sia tanto di guadagnato per lei. «Ebbene», disse Emma, desiderosa di passar sopra alla faccenda, «voi volete particolari dello sposalizio e io sarò lieta di darveli, che abbiamo tutti tenuto un contegno incantevole. Ognuno è stato puntuale, ognuno faceva la miglior figura. Neanche una lacrima si vedeva, neanche un muso lungo. Oh no, tutti sentivamo che non si sarebbe stati lontani per che mezzo miglio ed eravamo sicuri che ci saremmo incontrati ogni giorno. La cara Emma sopporta ogni cosa così bene», disse il padre. «Ma, Mr. Knightley, le dispiace proprio parecchio di perdere la povera Miss Taylor. E io son certo che ne sentirà la mancanza più di quanto non pensi». Emma torse il volto, combattuta tra le lacrime e i sorrisi. «È impossibile che Emma non senta la mancanza di una tal compagna», disse Mr. Knightley. «Non ci riuscirebbe tanto simpatica se potessimo supporlo. Ma lei sa che vantaggi il matrimonio rechi a Miss Taylor. Sa quanto debba riuscir gradito all'età di Miss Taylor sistemarsi con una casa propria. E quanto sia importante per lei aver la certezza d'un avvenire agiato. E perciò non può permettersi di sentire tanto pena quanto piacere. Ogni amico di Miss Taylor deve essere lieto di vederla sposata così felicemente. E avete dimenticato una ragione di letizia per me», disse Emma. «Una ragione tutt'altro che trascurabile, che ho combinato il matrimonio io stessa. Ho combinato il matrimonio, sapete, 4 anni or sono. E vedere che aveva luogo e che io avevo visto giusto, quando tutti dicevano che Mr. Weston non si sarebbe mai risposato, può consolarmi d'ogni cosa». Mr. Knightley la guardò e scosse la testa. Il padre rispose affettuosamente: «Ah, mia cara, vorrei che tu non combinassi matrimoni o facessi predizioni, poiché tutto quel che dici finisce sempre per succedere. Ti prego di non combinare più matrimoni». «Ti prometto di non combinarne nessuno per me, babbo. Ma quanto agli altri non posso farne a meno. È il più gran passatempo che io conosca. E dopo il successo che sai, ognuno diceva che Mr. Weston non si sarebbe mai risposato. Ma che? Mr. Weston, che era stato vedovo per tanto tempo e che sembrava trovarsi così bene senza moglie, sempre impegnato coi suoi affari in città, o tra i suoi amici qui, sempre ben accolto dovunque si recasse, sempre allegro. Mr. Weston non aveva bisogno di passare a tu per tu con se stesso una sola sera dell'anno, se non gli fosse piaciuto. Oh no, di sicuro Mr. Weston non si sarebbe risposato. C'era persino chi parlava d'una promessa fatta a sua moglie sul letto di morte e chi diceva che il figlio e lo zio non glielo permettevano. Si dissero sul tema le più solenni sciocchezze, ma io non prestai fede ad alcuna. Fin dal giorno, o son circa 4 anni, che Misterio e io l'incontrammo in Broadway Lane, quando, siccome principiò a piovigginare, lui, con tanta galanteria, corse a prendere in prestito per noi 2 ombrelli da patron Mitchell. Io feci quel proponimento. Fin da allora progettai il matrimonio e, dal momento che tale successo mi ha arriso in questa occasione, caro babbo, non puoi davvero immaginare che io smetterò di combinare matrimoni. Non capisco che cosa vogliate dire con successo, disse Mr. Knightley. Il successo suppone uno sforzo. Davvero che avete speso il tempo convenientemente e squisitamente, se per gli ultimi 4 anni vi siete sforzata di concludere questo matrimonio. Degno impiego per la mente d'una giovinetta. Ma se, ed è quanto immagino piuttosto, quel che voi chiamate combinare il matrimonio non vuol dir altro se non che l'avete progettato, che un giorno che non avevate altro da fare vi siete detta: credo che sarebbe un'ottima cosa se Mistelo sposasse Mr. Weston, e che ve lo siete ripetuto in seguito di quando in quando. Se è così, perché parlate di successo? Dov'è il vostro merito? Di che andate orgogliosa? Avete azzeccato giusto, è tutto quanto si può dire. E non avete mai conosciuto il piacere e il trionfo d'averci azzeccato giusto? Mi fate compassione, vi credevo più sottile, poiché, credetemi, una congettura fortunata non è mai soltanto effetto della fortuna. Ci ha sempre parte l'intelligenza. E quanto alla mia povera parola successo, su cui trovate da ridire, non so se proprio non ci ho nessun diritto. Voi avete delineato 2 bei ritratti, ma io penso che ce ne possa essere un terzo, qualcosa tra chi non fa nulla e chi fa tutto. Se io non avessi stimolato le visite di Mr. Weston qui e non avessi dato molti piccoli incoraggiamenti e appianato molte piccole difficoltà, dopotutto la cosa avrebbe potuto finire in niente. Penso che conosciate Harfield abbastanza per comprendere questo. Un uomo franco ed aperto come Weston e una donna posata e senza affettazioni come Miss Taylor si può, senza timore, lasciarli condurre le proprie faccende. Con l'intromettervi c'è caso che voi abbiate fatto più male a voi che bene a loro. Emma non pensa mai a se stessa se può far del bene agli altri, replicò Mr. Woodhouse, che non aveva capito che a mezzo. Ma, mia cara, ti prego di non combinare più matrimoni. Sono sciocchezze e causano penose rotture nel cerchio d'una famiglia.